Bentornati, bentornati, questo è sempre sulla linea d'ombra e spero che sia di vostro gradimento lo speciale su questi UFO nei cieli della Calabria, anche perché sono andata a rinvenire un documento che è stato pubblicato un po' di tempo fa da un centro di telematico regionale. E vi volevo parlare degli ultimi avvistamenti di cui ho traccia, che sono uno l'8 di gennaio del 1964. Alle 22:30 sui cieli di Santa Eufemia a Lamezia. Vengono notate una miriade di luci azzurrognole circolari sul mare. Alcuni testimoni si avvicinano in barca e le luci si inabissano, tranne una che, colpita con un remo, risulta essere un corpo solido metallico che investe i barcaioli con una scarica elettrica, quindi è abbastanza pericoloso questa volta. E invece, si va ancora più in là nel tempo, il 29 di ottobre del 1954 alle 10:55 su Valico di Montescuro, in provincia di Cosenza, un disco volante viene visto da diverse guardie forestali. È sempre nell'ottobre del 1954, però solo 4 giorni prima, 5 giorni prima, scusate, il 24 di ottobre, quindi alle 23, su Catanzaro, un disco che compie evoluzioni. Quindi nello stesso mese, a distanza di 5 giorni, su Cosenza e su Catanzaro viene avvistato un disco volante, che sia stato sempre lo stesso, non lo sappiamo. Io comunque, mentre leggevo queste date, mi è venuta un'osservazione spontanea. Molti avvistamenti sono avvenuti in ottobre, cioè nel 1954 due avvistamenti su ottobre. Poi nel 1994 un avvistamento in ottobre. Poi abbiamo molte date addirittura che avvengono in agosto, quello del 1998 è il 23 di agosto, nel 97 è il 12 di agosto. Poi abbiamo anche altri avvistamenti, ecco, il 10 di agosto, notte di San Lorenzo, ricordiamo, viene avvistato nel 91 ancora nei cieli delle navicelle spaziali. E ancora agosto, il 28 del 1971, a Vibo Marina viene avvistata ancora una luce bianca. Insomma, vediamo che la frequenza con cui qualcuno potrebbe dire, siccome agosto comunque sia il mese in cui si avvistano più stelle cadenti, qualcuno potrebbe confondere il fenomeno degli avvistamenti UFO comunque sia con le stelle cadenti e potrebbe creare appunto una sorta di confusione anche di, come dire, un qualcosa di fantascientifico nella mente di chi osserva. E questo è stato uno dei documenti che io ho cercato sulla rete. E ho un altro documento, che è il blog di Hotel 1000, in cui praticamente si parla di un altro avvistamento UFO, di cui però vi parlo solo dopo questa ennesima pausa musicale che è abbastanza imminente, o addirittura una fotografia e il tutto viene girato durante il giorno. È una fotografia di quella che dovrebbe essere una navicella spaziale in pieno giorno in una città calabrese. E questa volta l'avvistamento è anche in provincia di Cosenza. Ricordiamo che l'articolo è datato 4 dicembre 2010 ed è un momento di sgomento, così ne parla l'articolo, per tutta la comunità marittima del Cosentino, appunto. La fotografia è molto, come dire, molto chiara, ecco, sì, chiunque guardandola potrebbe avere l'impressione di chi effettivamente racconta l'accaduto. Io nel frattempo, come al solito, vi invito a scrivermi le vostre opinioni, scrivervi i vostri suggerimenti e quant'altro, perché mi piace molto interagire con il pubblico. Avrei piacere di sapere se effettivamente questa puntata l'avete trovata di vostro gradimento, se è interessante, se ci sono delle curiosità che ho tralasciato. Sicuramente ci sono delle notizie di cui io non sono a conoscenza e che vi prego di mettermene al corrente, perché mi piacerebbe trattare gli argomenti che voi mi proponete come ho fatto in passato. E questo è tutto. Mi verrebbe da dire un attimo come appunto diceva J-Ax, che in una famosa canzone di qualche anno fa, che diceva: c'è chi della terra è stufo e in cielo cerca gli UFO. Mai come in questo frangente di tempo in cui ho raccolto un sacco di notizie relative agli avvistamenti, perché molto spesso rivolgere gli occhi al cielo è un segno di ricerca di speranza e ricerca di aiuto in un certo qual senso. Quindi vedere che dal cielo provengono dei segnali che non sono in qualche modo spiegabili e che ci lasciano di che pensare sul misterioso ha una certa valenza.